Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Siamo quasi indubbiamente il paese con più controlli alimentari al mondo, ma l'armamentario tecnologico di cui è dotato chi combatte le frodi alimentari potrà presto far conto su un nuovo strumento che permetterà di ampliare e rendere più precisa l'analisi degli alimenti in relazione alla presenza di molte diverse sostanze che indicano adulterazioni o possibili frodi alimentari. Il sistema progettato dall'Enea, per ora c'è un prototipo con un nome altisonante, diciamo così, Cicero, basato sull'utilizzo di un laser molto sofisticato. Ci facciamo spiegare tutto da Adriana Puiu, ricercatrice presso il Laboratorio Diagnostiche e Metrologia dell'Enea. Buonasera, buonasera Puiu. Buonasera. Allora, senta, intanto un laser, diciamo, per analizzare degli alimenti, ci fa capire più o meno come funziona? In realtà si parla di un sensore laser per adulteranti alimentari che si basa sulla spettroscopia laser e i suoi componenti fondamentali sono una sorgente laser a banda stretta, una cella di misure di piccole dimensioni e un sistema di rivelazione del segnale ad elevata sensibilità. D'accordo, e quindi cosa succede? Immaginiamo di voler capire se una mela, per esempio, è adulterata. Che si fa? Il fascio laser quindi investe il campione e si registra il segnale ottenuto in seguito all'emissione della radiazione da parte della mela in questo caso. Ok, quindi quello che succede è che si sparate un laser sulla superficie della mela, le sostanze reagiscono a questa luce emettendo luce a loro volta, voi analizzate questa luce emessa e riuscite a capire da che cosa è stata emessa e quindi facendo quella che si chiama una spettroscopia, quindi capite se dentro lì c'è anche qualcosa che non dovrebbe esserci. Esattamente. Senta, che cosa siete in grado di rilevare? Allora, l'apparato che abbiamo sviluppato è stato testato su diversi prodotti alimentari come il pesce, i succhi di frutta, la presenza della melamina nel latte. E nel primo caso il sistema ha permesso di individuare la presenza di istamina, che è una molecola tossica che si forma quando il pescato è vecchio. O non viene conservato bene. Ma il punto forte mi sembra di capire che è proprio la capacità di questo sistema di rilevare tante sostanze diverse fra loro, no? Abbiamo parlato del pesce, ma cos'altro? Esatto, il sistema è stato testato sia per l'istamina presente appunto nel pesce che per la melamina presente a volte nel latte in polvere. Succhi non dichiarati presenti nei succhi di frutta, l'adulterazione dell'olio extravergine d'oliva con oli vegetali a basso costo o addirittura il metanolo nel vino, insomma sì. Questo è uno mi sembra degli aspetti più innovativi poi del vostro lavoro e di queste tecnologie, è una famiglia di tecnologie che si sta sviluppando perché proprio consente di fare analisi, consente una grande flessibilità, perché normalmente questi sistemi, ne abbiamo già parlato in passato, erano capaci magari di beccare qualcosa ma solo quella cosa lì, invece qui voi riuscite a riconoscere una grande quantità di adulteranti. Sì, questo è anche grazie allo sviluppo degli ultimi decenni che hanno visto le sorgenti laser accordabili, sintonizzabili, quindi perfetto, che permettono di selezionare le frequenze del laser più opportune per determinare presenza di sostanze specifiche. Senta, che vantaggi offre questo tipo di approccio, cioè l'utilizzo del laser per questo genere di misurazioni rispetto alle tecnologie, alle metodologie esistenti? I vantaggi sono numerosi, prima di tutto la rapidità, quindi la possibilità di fare misura in tempo reale in pochi secondi, poche decine di secondi. Rispetto a quali sono i tempi normalmente invece? Le tecniche analitiche di laboratorio richiedono ore o alcune volte anche giorni. Ecco, quindi si può immaginare che questo genere di tecnologie consentano di aumentare di molto il numero dei controlli? Certo. Altri vantaggi sono la specificità, cioè la possibilità di ottenere assorbimenti ottici specifici che rappresentano un'impronta digitale del composto da rivelare. Poi la semplicità, proprio il fatto che non viene richiesto alcun pretrattamento del campione né uso di reagenti chimici. la facilità d'uso, quindi, perché i sistemi sono stati progettati per essere utilizzati da personale non esperto. E poi c'è un altro aspetto, forse il più importante di tutti, insieme alla versatilità di questo sistema, che è la portabilità. Sì, è vero. Mentre oggi le analisi si fanno portando il campione in laboratorio, questo sistema può essere trasportato su un carrello, quindi si possono fare analisi in situ. Oggi si tratta di un carrello, è il risultato del vostro progetto fin qui. Domani potrebbe trattarsi di una valigetta e proprio domani ci risentiamo per parlarne. Grazie per intanto, Adriana Puiu. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento domani.